che ho copiato da Morosola 285, poi mi confermi se è esatto o meno, mi darai anche il tuo nome nativo di operatore, cioè il nome di battesimo, così almeno lo metto a brogliaccio, poi ti mando avanti Marco. Avanti ancora con un collega di Domodossola, per Giulio Whisky Mike 120 Sassari. K al mio nome 1, Romeo, India Romeo 285, operatore Walter, UTH Domodossola, te cambio. Ok Romeo, ok, copiato 285 dalla 1, che significa Italia, va bene, ti mando avanti Marco dalla mia stessa città, qui da Sassari. Avanti Marco, per Romeo K. Attento Giulio, ci ascoltiamo dall'Andrea, da Winnipeg 32. C'è una stazione bassa che chiama, poi la facciamo venire avanti. Sì, vediamo se la manchio mi ascolta. Lui arriva a un 5-9, arriva ottimamente, la città di Domodossola. Vediamo se ascolti Marco da Sassari. Attenzione Marco, ti ascolto. Avanti, Marco, vediamo cambio. Se ascolti anche l'Andrea dalla provincia di Cupola. Sì, K. Ecco qua, ripeto, Marco da Sassari, magari niente nominativo, io non lo utilizzo. Ti ascolto ottimamente, la modulazione è chiara, il segnale 5-9. Giulio, c'è una stazione bassa che chiama, credo che sia quella di prima, però da me arriva talmente bassa e risicata, tipo un Santiago 2, che non riesco a tirarla fuori. Vedi se riesci a tirarla fuori tu. Siamo un po', se l'amico è da Domodossola forse, non lo so. Avanti l'amico, se è da Domodossola, confermi? Kappa, qui 1 RIL 285, Walter Domodossola, segnale per voi 5-9, modulazione ottima, a te amico della Sardegna, cambio. Grazie Walter, anche per te lo stesso segnale, stesso Santiago, stessa radio, non c'è problema, per cui va benissimo, ti ascolto, tu sei seduto qua vicino a me, di fianco a me, pertanto non c'è problema, almeno nel momento, sempre che la propagazione continui così in questa maniera. Ti mando avanti Marco, che poc'anzi lui ha avuto un pochino di difficoltà ad ascoltarti, vediamo un po' se adesso vi sentirete meglio. Avanti Marco per Domodossola, avanti Domodossola. Prego, buongiorno. Registrato. No, Giulio, Domodossola arriva bene, molto bene. C'è una stazione bassa, non mi ricordo se era Como. Proviamo a farla venire avanti. Registrato anche che ha fatto il break. Attenzione alla stazione bassa, forse Como. Vediamo se riesce a venire avanti. Bianco per gli altri. Sì, ciao Marco, buongiorno, sono Andrea, da 1 Whisky Mai 132, la provincia di Como, ti ascolto veramente. Lo copi? Sì, copio Como, la provincia di Como lo copio un po' bassino ma riesco ad ascoltare. Vediamo l'amico di Como, fatti avanti con il tuo indicativo, così mi dai il nome e il numero di Whisky Mike se fai parte del gruppo. Pertanto ti saluto comunque, dai Giulio Whisky Mike 120 da Sassari, in compagnia di Marco, con nominativo privato, senza nessun gruppo. Avanti ancora l'amico di Como, K per Giulio Sassari. Va bene, ok Giulio, ciao, buongiorno, ben sentito. Sono Andrea, 1 Whisky Mike 132, la provincia di Como, ti ascolto 5657. Ripeti ancora il numero, l'amico di Como, e di nuovo le tue coordinate, perché c'è stata una sovramodulazione, comunque tu ti dicevo bene, quando la frequenza è libera senza altre sovramodulazioni ti dicevo molto bene. Avanti ancora l'amico di Como, K. Ok, Roger. Giulio, ciao, buongiorno, sono Andrea, 1 Whisky Mike 132, la provincia di Como, ti ascolto 5556, ti segnale radio, pulito, eh? Allora Giulio ha detto 1 Whisky Mike 132. Ok, Andrea mi sembra, Andrea, cioè confermi Andrea? Roger. Ok, ti mando avanti l'amico Marco dalla stessa città dove sono io, eh? Avanti Marco per Andrea, in provincia di Como, K. Sento anche altre modulazioni. Allora un saluto ad Andrea dalla provincia di Como, il tuo segnale diciamo ha molto QSB e varia da un 3 inclina un 7, diciamo, gli ultimi passaggi erano più capibili. Prima aveva breccato un'altra stazione, vediamo se ancora l'ascolto. Avanti che vuole entrare qua sul 9. Dito Marco, come c'è da divertirsi? Un attimo, uno per volta per cortesia, dai. QRZ, uno per volta. E diamo spazio a tutti. Chi modera per voi in questo momento è Whisky Mike 120 dalla città di Sassari, operatore Giulio. Però uno per volta per cortesia, se no non si capisce niente. Vediamo un po'. Io rimetto il microfono al primo che schiaccia, ma con calma, senza bisogno di affollarsi troppo, se no non si capisce, ripeto. Avanti l'amico che vuole intervenire. 120, buongiorno, 259. 259, ti copio perfettamente. 259, dalla 1 sicuramente. Dimmi la città da dove trasmetti e il tuo nome di battesimo, grazie. Giulio, buongiorno, ciao Sassari, piena città di Biella. Ok Marco, se ho capito bene, Marco da Biella, 259, sì, tu sei una potenza, sempre con la dalla barra mobile, ti ho sentito altre volte e ti leggo sempre in chat, sei anche un assiduo della chat, mi fa piacere comunque, dai, va bene così. Ti mando avanti Marco, da sempre da Sassa, dai avanti Marco per Biella, K. Sì, tutto a posto, ciao, ti auguro buona giornata, lascio campo libero, ciao 120. Sardegna, ciao, 220, 259 ti saluta. Ok, ciao 259, salutoni da 120, dalla Sardegna, Sassari, operatore Giulio, ciao, grazie per il contatto, avanti Marco. Giulio, qua è un po' un problema, perché c'è una stazione presumibilmente in FM che parla in tedesco, oppure credo che stia mettendo anche la portante. È un problema copiare gli interlocutori. Guarda come ti posso fare Marco, purtroppo sono situazioni queste che succedono, poi naturalmente se qualcuno vuole fare il fesso che lo faccia pure, non è che ci guadagna, non ci guadagna niente lui e non ci perdiamo niente lui, pertanto non possiamo, lasciamo un attimo di bianco e vediamo un po' cosa succede, se no eventualmente cambiamo frequenza, vediamo un po' la frequenza libera per un istante, dopodiché se c'è qualcuno che vuole intervenire siamo pronti a rispondere, avanti. Ha fatto scappare tutti. deve essere qualcuno nel canale adiacente, Marco. Qualcuno nel canale adiacente, non lo so, forse in FM, non lo so. Però purtroppo succede così. Aspetta Marco che io cerco un altro canale, vediamo un po' se ne troviamo uno più bello e più pulito, più bello tra virgolette chiaramente, perché i canali sono tutti uguali e tutte le persone che ci trasmettono sono tutte persone simpatiche. Per cui vediamo un po' Marco, un attimo e ti ritorno qua oltre un attimo, ok? Prova Mike, 1, 2, 3. Marco! Dimmi tutto. 27, 5, 8, 5, 27, 5, 8, 5.